la musica e fai io già lì di dudu e monte mamma baby ma va a male chi la banzio tango na me matti io la fa bocco.